Europa 24. Ben ritrovati da Laura Bettini per Europa 24, secondo appuntamento oggi con il programma di sostenibilità che hanno intrapreso due grandi aeroporti italiani, Milano Malpensa e Roma Fiumicino. Entrambi stanno sperimentando il sistema Cascade, elaborato da ricercatori europei con il finanziamento della Commissione per la riduzione dell'impronta ambientale e dei costi di gestione degli aeroporti, una sperimentazione che si concluderà l'anno prossimo e fornirà dati utili a tutte le aerostazioni del continente. Ieri abbiamo sentito come si sta lavorando a Milano, oggi andiamo a Roma, il primo aeroporto d'Italia per traffico passeggeri, l'ottavo in Europa. Ruggero Poli, responsabile esercizio e manutenzione e energy manager degli aeroporti di Roma. Gli aeroporti sono stati riconosciuti a livello europeo come degli aggregati ad elevato consumo energetico. Per esempio, noi consumiamo circa 160 gigawattora all'anno di energia, che corrispondono a 65.000 famiglie, quindi il nostro consumo qua è pari a quel consumo di 65.000 famiglie, e attraverso questo sistema di diagnosi molto evoluta si riescono ad intervenire e a risparmiare tutti quei funzionamenti parzialmente ottimali che si hanno durante l'anno. Cioè, c'è un impianto che funziona perfettamente e poi c'è l'impianto guasto, in mezzo ci sono una montagna di condizioni di funzionamento che possono essere ottimizzate solo avendo questi strumenti diagnostici molto evoluti. Quindi l'intervento riguarda proprio questo, uno studio di come... L'intervento riguarda sì, una misurazione in campo, c'è tutta una serie di parametri che normalmente non vengono misurati, e l'elaborazione con strumenti informatici sofisticati di tutte le logiche di controllo e un'allerta ai manutentori sugli interventi che devono essere fatti in maniera preventiva. Dov'è che un aeroporto può perdere energia? Insomma, ho fatto l'esempio prima anche dei sistemi, non so, di raffrescamento, cose di questo genere. Altri punti da tenere sott'occhio? Sì, un aeroporto come l'aeroporto di Roma ha circa 500 edifici. E quindi questi 500 edifici vivono ognuno di vita propria, con all'interno degli utilizzatori che hanno degli orari diversi di apertura, di chiusura, quindi un elemento di attenzione molto importante è essere sicuri che tutti i sistemi di condizionamento, di riscaldamento, le luci vengono accese e spente quando è il momento ottimale, cioè solo e sempre quando c'è poi un utilizzo reale. E questo ovviamente su un panorama con 500 edifici e decine di milioni di passeggeri all'anno è facile da dire a parole, ma poi dopo riuscire a farlo in pratica giorno per giorno è una sfida abbastanza significativa, che però dà degli ottimi risultati. Noi, intervenendo solo ed esclusivamente sulle accensioni e gli spegnimenti nel momento giusto, negli ultimi 3-4 anni siamo riusciti a risparmiare più del 10% del consumo di energia elettrica, tant'è vero che noi oggi come aeroporti di Roma consumiamo la stessa quantità di energia elettrica che si consumavano 10 anni fa, quando il numero di passeggeri era molto ma molto minore. State lavorando anche sulle emissioni? Sì, attuando un risparmio sull'energia elettrica, parallelamente si ottiene in automatico anche una diminuzione delle emissioni del gas serra. E su questo fronte noi stiamo lavorando sia con il progetto Cascade e anche stiamo lavorando su delle fonti rinnovabili, cioè abbiamo previsto degli investimenti abbastanza significativi per l'acquisto di sistemi di produzione da fonti rinnovabili, in particolare dei sistemi mini-eolici. Abbiamo fatto 2 anni di analisi sull'aeroporto per vedere sulla fattibilità di questa installazione di mini-eolico, e sui sistemi fotovoltaici a concentrazione. Quindi nei prossimi anni investiremo per cercare di raggiungere un aumento oltre il 20% di produzione da fonti rinnovabili. Mi pare che quindi vi stiate orientando più sulla produzione di energia rinnovabile che sulla borsa delle emissioni, come hanno fatto a Milano. Diciamo che li abbiamo presi entrambi, cioè una questione di borsa che è legata all'Airport Carbon Accreditation, che è un sistema di certificazione delle emissioni idrocarboniche degli aeroporti, all'interno del quale noi siamo certificati come Milano, siamo arrivati a livello 3, che è il livello di ottimizzazione. In parallelo però vogliamo anche installare concretamente dei sistemi che producano energia da fonti rinnovabili. Proseguite, immagino, visto i risultati che sono stati ottenuti finora. Sì, abbiamo già pianificato di proseguire negli altri terminal non interessati da questo progetto finanziato dalla Comunità Europea, proprio perché i risultati ci hanno dato un'ottima soddisfazione. Parallelamente noi abbiamo anche una centrale di cogenerazione che lavora in aeroporto, che copre sostanzialmente la totalità dei fabbisogni dell'aeroporto. E una centrale di cogenerazione funziona secondo un principio, cioè normalmente bruciando 100 di risorsa fossile si ottengono un 40% di energia elettrica, il 60% di calore viene disperso nell'ambiente. con un impianto di cogenerazione come il nostro, questo 50-60% di calore viene invece riutilizzato nell'aeroporto o per riscaldare o per produrre acqua fredda, quindi praticamente noi cerchiamo di utilizzare tutto quello che viene consumato a monte della risorsa non rinnovabile. È tutto per questo appuntamento, ci ritroviamo domani alla stessa ora. Da Laura Bettini, buon ascolto. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.